rimasto io, così ci è rimasto, Pomponio, tu e Tino, se non sbaglio, avanti Tino. Poi c'è, aspetta un attimino, già c'ho mille cose qua, ma c'è anche la voce magari. Io ti ascolto ancora. Sì, sì, in quell'ultimo passaggio era, ma adesso sembra che ci sia ripreso di nuovo. Era solo in quell'ultimo passaggio, prima, precedente a quello, all'ultimo che hai fatto, era un pochino di fischiettino, non fischio, una specie che non so io con nemmeno come definirlo, comunque non era un eccessivamente forte. Riprendi per vedere se ascolti Tino, che faccio, metto un po' di quelli qui, dove è quello per contatti. Ok. E allora Tino, pedalando, sai, pedalando. Ok. Sta andando forte, nel senso che la radio è buona, Santiago è anche discreto, Santiago 7-8, oscillante naturalmente, perché essendo un movimento, però la radio è fortissima, è fatto bene, ma con campo stai andando, capita, va bene, considerando, è l'antenna dove ce l'ha il campo, sul palafango davanti. Ho capito, no, appunto mi meravigliava il segnale, ma dopo col campo ragazzi sta arrivando, perché di solito tutti i campionisti che sento arrivano bassissimi, non avendo magari il tettuccio della miera, diciamo così, che è rilevante, allora l'antenna va così, così. Solitamente ce l'hanno sul parafango, davanti ce l'hanno. Dimmi poi. Un attimo Antonello, che sta modulando Tino, Antonello, un attimo, ho capito Tino, sì sì, va benissimo, il segnale è sempre stabile, 7-8, va bene che probabilmente la posizione verso di me è buona, però diciamo che è abbastanza stabile il segnale, avanti, sì, ok, 7, sempre 7, adesso sì, sentiamo 7, avanti Antonello, dicevi? No, niente, non lo sento io attiva per niente, più, non lo sento più, assolutamente, c'è un problema, sapevo 7-8 in questa palazzina, quindi è impossibile ascoltarlo. Ho capito Antonio, me ne sono accorto che non lo sentivi, si trova in questo momento all'incrocio della Maria del Sorso, per cui è un pochino lontano di solare. Sì, non l'hai sentito tu Antonello? No, Fabrizio si è sentato un attimo che stava volando sul microfono, credo, per cui per evitare quel piccolo disturbo che aveva poc'anzi. Tutto lì. No, non ti senti Antonello, non sente nemmeno te. E va bene, dai, vediamo un po' dove riesco ad accompagnarti o Tino. Aspetta che riprendo io. No, adesso non sta andando, vero? Sì, sta andando benissimo, Fabrizio. Però non mi sembra che sia, sì, forse sì, che stia spingendo come poco fa. Come lo vuoi mettere il tuo microfono, ok? Tino, un attimo solamente Tino che sta facendo la prova Fabrizio. Aspetta Tino. Adesso perché sta fischiando? Hola, 1, 2, 3, prova. Ma questo MC, è 50, va, non 500, va 50 l'MC60, giusto? 50 ohm. Sì, 50 ohm, perlomeno io lo uso a 50 ohm. Senza processore sono io e niente. 50 kilo ohm, non a 500, ecco perché. Allora, vediamo se mi ascolta Tino, anche io l'ascolto più basso di te, mi sa tanto, sei più favorevole tu, anche, vedi, anche Pomponio che è più alto di me, pure alla zona, probabilmente sei più, vediamo un attimino, Tino, mi ascolti ancora? Tino, mi senti? Ok, ti ha chiamato Fabrizio, non so se l'hai ascoltato, te lo rimando avanti, vediamo un po' se lo senti a Fabrizio, vai Fabrizio. No, io non lo sto sentendo, sino a poco fa lo sentivo, probabilmente sei più favorevole tu per Tino, da lì, dal latte dolce. Sì, probabilmente. Sì, io sono da punti sono io, sì, vabbè, questo con la zona dovrei avere un piccolo vantaggio, vabbè, comunque. Avanti Tino, vediamo un po' se riesco ad ascoltarti ancora. Ho capito che stai transitando sulla strada per casa del Sardo. Confermi che ho sentito bene? Ok, va bene, dai. No, ti stava chiamando anche Fabrizio, evidentemente non è una posizione buona per lui. Vai Fabrizio, riprovaci adesso, che adesso lo sento ancora un pochino meglio di poc'anzi. Vai Fabrizio. Anch'io l'ho sentito poco fa, ma a malapena, incomprensibile. Vieni avanti Tino. Ma hai sentito Fabri? Adesso l'ho sentito fortissimo, incrocia Usini, così hai detto Tino. Ah, Nurvi, ho capito, adesso mi sei arrivato fortissimo in radio, il segnale è sempre quello, come ti dicevo, adesso sei di nuovo 7, per cui vai Fabri per adesso lo dovresti sentire bene. Sì, l'ho sentito anch'io, ma non benissimo, però l'ho sentito anch'io, sicuramente lui magari mi ascolta. Sì, incrocio di Nulvi, vero Tino? Mi ci abbasci di volte, sì. Buonasera a tutti. Ciao Claudio, c'è Tino, prova a lanciare un urlo anche tu, vai, che sta andando verso l'Isola Rossa. E arriva anche molto bene qua. Ciao Tino, buonasera, ben ascoltato, mi accoppi. Tino, l'hai sentita Claudio? Non ti sente Claudio, non ti sente. Vabbè, dai, evidentemente in questo momento si trova in una posizione. Ma io ti sento ancora molto bene, Tino. Vediamo un po' se dove riesco ad accompagnarti. Vai Fabrizio. Ciao Claudio, vediamo un attimino se l'ascolto, perché poco fa l'ascoltavo, in quest'ultimo passaggio mi è sembrato di non sentirlo. Non arriva qua. Tino, vedi un attimino se mi ascolti. Ma a me non mi senti, io ti sento a te. Io sento, Santiago 2-3 arriva qua. Vabbè, dai. Sto facendo cosa, buona serata a tutti, ci sentiamo, ciao Fabri. Vabbè, ti devo chiamare per telefono, ti devo dire due cosette, ma adesso non c'ho tempo. Beh, ci sentiamo, ci aggiorniamo comunque, ciao a tutti. E io, va bene. Ok, ciao qua, ci sentiamo le prossime allora, dai. Avanti Tino, dimmi dove sei adesso. Dove sei, vicino a Castelsardo, così hai detto. Bivio, sì, Bivio, Castelsardo, Santa Teresa, ho capito, l'hai sentito Fabri? Ma io, incomprensibile per me, chi è lì che mi sta ascoltando? Fabrizio, ti ha chiamato, prova, forse adesso lo senti, Fabri. Tino, mi senti? Tino, tu che strano, arriva qua, arriva Santiago 3-4, bello pulito, e non mi sente, vabbè. Non so cosa dirti, adesso glielo chiedo io. Tino, ti stava chiamando, Claudio, arrivi da lui, come mai tu non senti a lui? Ok, d'accordo Tino, dai, buona passeggiata, allora ci sentiamo evidentemente un'altra volta. No, ti stavo dicendo, come mai Claudio ti sente a te e tu non senti a lui, quello che intendevo dirti. Non capisco come mai. Che strano, la tonara non è molto distante da me. Va bene, beh, evidentemente c'è l'antenna di pratica. Ciao Giulio, che c'ho gente, ci sentiamo alle prossimine. Ciao anche a Fabrizio. Ciao T, mi sembra strano perché io la vedo quella zona. Evidentemente c'è qualche zona d'ombra. Va bene, se sei ancora la tonara comunque salutami il titolare, ciao! Adesso arrivi fortissimo, adesso arrivi quasi 7, sì. Sì, arrivo bene, vai Fabrizio, adesso lo dovresti sentire sicuramente bene. L'ho sentito, parlo molto bene, qui ho 2-3 di cose, quel poco di 3-4 di come cavolo ci chiede QRM, no, non lo sento io, lo sento a malapena, sento che sta parlando, ma è per me incomprensibile. Ok, vabbè, dai, nel coso, come si chiama, Bartonara, con l'accidentaccio si chiama, adesso io non sono pratico di quella zona. Vabbè, Tino, dai, allora, se stai chiudendo, poc'anzi avevi annunciato che stavi chiudendo, non lo so, se vuoi che ti accompagni ancora, vengo fin dove riesco ad ascoltarti, diversamente dimmelo tu. A Nulvi stai andando, Tino? Alla Marinetta, va bene, non ci arrivi all'Isola Rossa, quello è l'Isola Rossa a Porto. Va bene, Paruletta e la Marinetta. Ok, arrivi fortissimo adesso, va bene, ok. Eia, beh, lì è un casino quelle curve, va bene, stai attento, dai. Ciao a tutti, ci sentiamo. Attenzione alle curve, vai piano. Avanti, riprendi, Fabri. Sì, dai, lo saluto anch'io, che adesso forse mi sente. L'ho sentito un pochino, no, ma lì punti è molto favorevole per quella zona. Io ho visto anche in Vacchetta, abbiamo fatto delle prove con un altro radioattore, come si chiama, Walter, l'ha accompagnato. guadagnava sino a quasi a Castelsardo e noi invece lo perdevamo, perché comunque c'è tutta quella parte, noi quella zona lì con i silici non ascoltiamo. Abbiamo fatto anche prove, un sacco di prove qua, anche negativa per noi a Sassari, anche per anche parte monte ha provato, niente, non ci va, non se lo fa, in 27 pure abbiamo provato. No vabbè, qua già c'è un'apertura forse a quella zona, però io già ci ho lavorato lì, è un bel zona d'ombra, soprattutto quelle curve lì quando inizia a passare lì con le curve di Badesi, è un casino. Va bene, ho letto Fabri, mi ascolti bene, sì? Perfettamente, un bel amplificato. A due ce l'ho l'amplificazione, processore inserito. No, va benissimo, ottima, va benissimo, è molto amplificato. Senti proprio anche il microfono, spongo. Ehi. Questo è il 32, mi capisci? Il 32. Sì, va molto bene. E l'altro? Ah, l'altro è una canonata. L'altro è una canonata, il 31 è una canonata, il 32 va bene, un po' meno selettivo del 31, giustamente, perché sai che cosa manca, però va bene lo stesso. Ah certo, quello sì, ma già va bene, va benissimo. Come lo senti tu, Giulio? Io lo sento sempre molto bene, Claudio, lui lo sa benissimo tutte le volte che... Io una volta gli avevo proposto di parlare con un corno di bue per vedere se c'era qualche differenza, ma mi sa che anche con un corno di bue lui da me arriverebbe alla grande, veramente, Fabri. Allora sta arrivando bene. Vediamo il segnale come che io sto guardando. La radio è sempre come sempre. Vai avanti. Guarda, tu stai andando sul più del 30. Sul più del 30, lo Smith lo conosci. Penso che sia anche perfetto come segnale, perché è stato parato alla perfezione. Non lo so, Giulio è 9 più 10 pieno, tu sei sul più del 30. Sì, vabbè, anche tu, no, tu qua, vabbè, intorno a 25, 9,25 qua più o meno, siamo lì, poi dipende dalla radio a mille cose, comunque più o meno il segnale è uguale ovviamente, però durante le negative, no, sempre molto forte arrivi qua. Sì, tu sei 25, sei parlato verso il 30, più o meno i segnali corrispondono come corrisponde tra me e Giulio, più o meno siamo lì, 9,10 abbondante Giulio, io sicuramente non gli arrivo neanche 9,10, ma insomma siamo lì, dai, non fa niente. Va bene raga, dai, che mi devo accendere il fuoco, stasera viene mia sorella e degli amici di Alghero. Ne approfitto, la giornata è un po' più fresca e c'ho gente a cena, quindi devo iniziare a organizzarmi. Un abbraccio a tutti e due, statemi bene, buon fine settimana, buona domenica per domani se non ci dovessimo sentire, poi Fabri ci aggiorniamo telefonicamente, ok? Riprendi Fabri, ascolta il finale e poi chiudo. Ehi, dai, ciao, buona cena, anche io dovrò accendere il fuoco più tardi, dai. Ok, ciao qua, ci sentiamo allora, alle prossime, dai, grazie per essere entrato a salutare, alle prossime, ci sentiamo. Non so se stai chiudendo anche tu, Fabri, me lo dici eventualmente, se no io sono ancora disponibile, tempo ancora ne ho. No, io sono qui, Franco, anche io mi ha dato un messaggio, ho detto mi sto preparando, mi sto preparando, sono alle 6:05, quindi, arrivo quasi anch'io vabbè, altri 5 minuti e poi inizio a prepararmi anch'io, va, che devo uscire. Ok, sì, va benissimo Fabio, non c'è problema. Bene, tu comunque mi senti bene, insomma l'avresti detto, se ci fosse stato qualche piccolo difetto, ma mi sa che sta andando bene questa radio, dai, vecchia, ma cammina ancora. No, perfettamente, senza nessun problema, dai. È che ultimamente radio facendo per altre cose qua, non era, vabbè, a parte che ero giù al mare, quindi sto facendo un po' di qualcosa in remoto su altra parte, con qualche altra, però diciamo fonia un po' poca. Ok, ho capito. Sì, vabbè, no, io non sto usando più nemmeno il processore da un paio di mesi, non sto più usando il processore, sto usando il mic normale, cioè il mic gain normale a 1,5 e basta, niente di più, sempre con lo 60, ma niente di particolare, comunque la distanza più o meno la lunghezza del braccio dalla bocca, e per cui va bene così. Allora tutti mi dicono che va bene e io continuo così. Non va più che bene, senza nessun problema, va più che bene. Hai detto come tutto a posto, sì? Sì, hai detto tutto a posto, sì. La salute sembra che stia andando come dovrebbe andare, cioè nel migliore dei modi, però sono sempre sotto controllo periodicamente, ma comunque sembra di aver risolto il problema che avevo. Speriamo bene, comunque ne ho ancora un anno di controlli. Va bene, comunque. Dio si è accorto che ci sono anch'io. Già mi vuole bene e io voglio bene a lui. Sì, dai, piano piano, piano piano. E va bene, dai, io che inizio a segnare qua, così chiudo un po' di roba qua e mi inizio a mettere un pantalone, dai. Ci sentiamo magari in questi giorni. Ciao Giulio, buon sabato e buon sabato anche a tutti gli ascoltoni. Ok, grazie della chiacchierata, poi ci sentiamo alle prossime, dai. È sempre un piacere ascoltarci alle prossime. Allora rimango 5 minuti anch'io così in ascolto, se entra qualcuno, diversamente chiudo e me ne vado giù in sala a guardare la televisione. Va bene, ciao Fabri, di nuovo, saluto ancora, ciao ancora a Claudio se sia ancora all'ascolto, chiudo.